24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, ben trovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in Europa allati da una strategia di crescita, ha affermato. Vi aggiorneremo sulle ultime novità relative alla crisi finanziaria con un duro attacco degli imprenditori britannici al governo Cameron e vi parleremo dell'allarme europeo sulla disoccupazione giovanile. Ma non solo, c'è bufera in Germania sul Presidente federale Wolf. E indovinate chi è la donna dell'anno in Francia? In apertura le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ieri ha dedicato all'Europa buona parte del suo discorso di auguri natalizi. È verso un'Europa più federale che è gioco forza muoversi, ed è qui che passa l'affermazione non solo di una cultura della stabilità, ma anche di una cultura dello sviluppo e di una nuova strategia di crescita per l'Europa, quella che oggi latita nonostante l'incombere della recessione. Ma sentiamo ora un passaggio dell'intervento del Presidente della Repubblica. Senza volerne dare qui una valutazione analitica, mi limiterò a rilevare l'impegno e la complessità di quel confronto, l'indubbio rilievo e tuttavia i limiti di alcune novità che sono emerse. Con esse, in continuità col pacchetto di regole già approvate dal Parlamento europeo, si è teso a rafforzare la governabilità e controllabilità delle politiche di bilancio degli Stati membri e prevenire il riprodursi di deficit eccessivi, procedendo verso una vera e propria fiscal union. Resto convinto che non si debba distogliere l'attenzione da quel che può essere fatto senza indugio entro il quadro giuridico attuale. E non poco resta da fare. Nemmeno con l'ultimo Consiglio è stata ancora eretta una barriera di corresponsabilità e solidarietà sufficiente per bloccare attacchi pesanti nei mercati finanziari ai debiti sovrani di Stati come il nostro. Sono certo che il governo italiano continuerà a sollecitare in tal senso scelte più coraggiose e coerenti entro il prossimo marzo da parte delle istituzioni europee. Ora la crisi nell'Eurozona. Siamo fiduciosi che raggiungeremo i 200 miliardi di euro inizialmente stabiliti per aumentare le risorse dell'FMI. Lo ha affermato un portavoce della Commissione, spiegando che i 150 miliardi decisi lunedì sono una prima tranche decisa dagli Stati dell'Eurozona, a cui si aggiungeranno sforzi di altri paesi. In Gran Bretagna cresce intanto il fronte delle critiche alla decisione del governo di non aderire all'Unione Fiscale Europea. In un primo momento a prendersela con il premier conservatore Cameron, che ha deciso di lasciar fuori il suo paese dalla nuova stretta di bilancio dell'Unione Europea erano stati i suoi nemici politici, i laburisti, e fin qua niente di strano. Qualche crepa però si è aperta anche tra i liberaldemocratici alleati di Cameron ed europeisti convinti. Quindi è stato il turno dei mezzi di informazione autorevoli come The Economist e Financial Times a mettere in guardia Londra dal rischio isolamento. Adesso a scendere in campo è un gruppo di imprenditori con una lettera al Telegraph. Il rifiuto di Londra di aderire al nuovo patto fiscale europeo mette a rischio oltre 3 milioni di posti di lavoro, scrivono i capitani d'industria del calibro di Richard Branson, patron della Virgin, e Mike Rake di British Telecom. I 20 imprenditori invitano Cameron a tornare al tavolo dei negoziati europei. È nel nostro interesse che l'euro sopravviva, visto che, spiegano, il mercato europeo rappresenta oltre la metà delle nostre transazioni commerciali. E così aumenta il pressing su Londra, che ha appena annunciato di non aderire nemmeno all'aumento di capitale del fondo salva stati. Alessio Maurizi, Radio 24. Il Sole 24 Ore. Fitch mette in guardia da possibili declassamenti di rating anche del Fondo Europeo Salva Stati provvisorio. La AAA dello European Financial Stability Facility dipende ampiamente dal fatto che Germania e Francia manterranno i rispettivi rating AAA, ha affermato l'agenzia. Sofia intanto ha ufficialmente rifiutato di prendere parte al Fondo Salva Stati, sostenendo che non vuole prendere impegni finanziari verso l'FMI. Il tutto mentre il presidente della Commissione, Barroso, ha chiesto in una lettera al primo ministro ungherese Orban di ritirare i progetti di legge tesi a limitare l'autonomia della banca centrale magiara. E il Parlamento ungherese ha adottato una manovra di austerità per il 2012, la revisione a ribasso delle prospettive di crescita e il crollo del fiorino hanno costretto il governo a coprire un buco di 1,07 miliardi di euro. Il deficit pubblico portoghese sarà del 4% circa a fine 2011 invece del 5,9% previsto grazie al trasferimento verso la sicurezza sociale del fondo di pensione delle banche, lo ha confermato il ministro delle finanze Vítor Gaspar. Restiamo nella penisola iberica. La Spagna ha collocato sul mercato dei capitali titoli di Stato a 3 e 6 mesi per complessivi 5,6 miliardi di euro, una cifra nettamente superiore alle intenzioni della vigilia, in fortissimo ribasso. I tassi sul fronte borsistico, finale in gran rialzo per le piazze europee, incoraggiate dai dati macroeconomici migliori delle attese e dall'andatura di Wall Street. Milano ha guadagnato il 2,87%. Voltiamo pagina. Il referendum sull'adesione della Croazia all'Unione Europea si terrà il prossimo 22 gennaio, lo ha annunciato il presidente croato Josipovic. Altro passo in avanti verso il brevetto unificato europeo, la Commissione Affari Giuridici dell'Europarlamento ha approvato il compromesso sui regolamenti raggiunto per il regime linguistico e giurisdizionale che si applicherà nei 25 paesi che hanno aderito alla cooperazione rafforzata. Resta però aperto lo scontro tra Francia e Germania per avere la sede centrale della Corte. L'attuale disoccupazione giovanile sta diventando drammatica in molti stati membri e se non facciamo subito qualcosa rischiamo di perdere questa generazione. Così il commissario all'occupazione Laszlo Andor ha invitato i 27 ad affrontare il problema giovani con riforme ad hoc nel 2012 che la commissione valuterà per assicurarsi che la questione venga affrontata nel modo più efficace possibile. Secondo i dati di Bruxelles ci sono 5 milioni di giovani disoccupati nell'Unione Europea mentre 7,5 milioni tra i 15 e i 24 anni non lavorano né studiano. Il presidente tedesco Christian Wulff nella bufera, il quotidiano Bild torna all'attacco ieri mattina sull'home page del sito, ha rilanciato nuove accuse contro il presidente. Secondo la testata, la pubblicità sui giornali del libro su Wulff, Meglio la verità, non sarebbe stata pagata dalla casa editrice, ma dall'imprenditore Carsten Maschmeyer, fedele amico del presidente. Inoltre migliaia di copie del libro, strumento chiave per la campagna elettorale nelle politiche regionali della Bassa Sassonia, furono acquistate dalla CDU per essere regalate durante la campagna in favore di Wulff. L'Italia rischia di perdere a fine anno stanziamenti ottenuti attraverso i fondi strutturali europei, lo ha affermato il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Gli stanziamenti non spesi al 2011 verranno persi dallo Stato a cui erano stati assegnati per essere destinati ad altri impieghi. In Europa spesso non svettiamo per primati e risultati. Anche per il trasporto ferroviario, per i pendolari siamo all'ultimo posto. I convogli di casa nostra sono i più lenti di tutto il vecchio continente, 35 km orari contro i 51 km orari della Spagna e 48 della Germania. Gabriele Nanni, curatore di Pendolari e rapporto annuale di Legambiente. Purtroppo è vero, è davvero, insomma, da molti anni ormai il problema appunto è un problema storico. Se le medie orarie di velocità del coinquilino, diciamo, del collega tedesco, francese o inglese sono più elevate, perché in quei paesi si sono messi in atto ovviamente finanziamenti, ma comunque progetti e infrastrutture dedicate ai pendolari, quindi linee suburbane o linee regionali, collegamenti tra l'Interland delle varie città principali che da noi purtroppo non ci sono, perché comunque basta vedere, insomma, le linee più importanti nelle città principali sono sicuramente dedicate ai pendolari, ma ricavate dalle infrastrutture che storicamente le ferrovie italiane avevano. L'unica eccezione probabilmente sono il passante di Milano, che è sicuramente un'infrastruttura importante appunto dedicata a questo tipo di treni. Ovviamente i problemi sono molteplici, quindi insomma oltre al ritardo infrastrutturale bisognerebbe metterci nuovi treni, maggiori treni su queste linee. Tutto questo insieme fa sì che la media oraria italiana sia la più bassa d'Europa. Christine Lagarde, Martine Aubry, Carla Bruni, Macchi. Donna dell'anno francese è Madame Strauss-Kahn. Eroina e antieroina, secondo i francesi, ma soprattutto secondo le francesi, Anne Sinclair, la moglie di Dominique Strauss-Kahn, è la donna dell'anno. Incoronata da un sondaggio di Terra Femina, un sito di informazione femminile, per il 2011 dal 25% degli intervistati, uomini e donne insieme, e dal 31% prendendo in considerazione solo le donne. Madame Dominique Strauss-Kahn, che prima di sposare l'uomo più discusso dell'anno era una star della TV francese, ha dimostrato tenacia, pazienza davanti a rivelazioni e ammissioni fatte da e sul marito, passando indenne attraverso vicende giudiziarie e interviste come quella al telegiornale della sera in cui lui diceva che sì, aveva fatto sesso però solo orale e consentito con la cameriera. Ma anche le altre posizioni sono di gran richiamo: 24-23% per Christine Lagarde, nuovo direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, e Martine Aubry, prima segretaria del Partito Socialista, seguite da Marine Le Pen, Giovanna D'Arco dell'ultradestra. Solo sesta al 16% Carla Bruni, Sarkozy, nonostante la piccola Giulia. Poi la candidata